Intanto a che edizione siamo arrivati? La 15ª, incredibile, vero? Ce l'abbiamo fatta, 15ª edizione, Daniele Del Pozzo, Gender Bender, è un'immagine assolutamente con un ricordo, ma anche con una continuità, un motivo di lotta, ricordo poche edizioni fa quella del calcio di karate, siamo tornati ai motivi di incontro, scontro e dibattito? Ma allora, il genere è un luogo che può essere, può diventare un luogo di scontro e dibattito, noi ovviamente vorremmo più trasformarlo in un momento di confronto e dialogo. Quest'anno ricade il quarantennale del 77 con tutto il retaggio storico e l'esperienza che quel periodo ha avuto, è il periodo anche in cui ci sono stati movimenti di liberazione omosessuale, quindi questo diventa un pezzo della storia d'Italia. Noi abbiamo pensato di chiamare l'edizione Lotta Libera perché è anche una disciplina sportiva e quindi, come tutte le discipline sportive, ha le sue belle regole che vanno rispettate. Poi abbiamo tante realtà parallele di intersezione come ogni anno, immagino, con altri festival e altri cartelloni. Allora, sì, è tanta roba, nel senso che sono più di 100 i soggetti con cui siamo riusciti a lavorare in felice collaborazione per realizzare questa 15ª edizione. Ovviamente ognuno ha dato un contributo, con tutti siamo riusciti a creare un tessuto molto fitto, quindi è un programma, diciamo così, labirintico per certi versi, e questo permette a chiunque, quindi a ognuno, tutti e tutte, di trovare la propria chiave di accesso, perché o attraverso uno spettacolo, attraverso un laboratorio o un incontro su un tema piuttosto che un altro, come dire, ognuno è libero di trovarsi la sua strada. 15 anni, siamo adolescenti, però cos'è cambiato? Una maggiore consapevolezza sicuramente, una maggiore curiosità, nel senso che più vai avanti a esplorare più in realtà hai ancora da esplorare, e questo penso che faccia parte della vita di un adolescente. E poi, che altro, la voglia di lavorare con gli altri, questo sì. Appunto, sentivo, ho rubato un po' di conversazioni, laboratori. Ah, ci sono delle cose fantastiche. Allora, noi ci siamo posti quest'idea che uno spettacolo uno se lo guarda seduto e magari può anche dopo un po' annoiarsi. Invece, l'idea nostra era che si potessero fare dei piccoli trucchetti per avvicinarsi agli spettacoli o agli autori degli spettacoli in una maniera molto più intima. Per cui ci sono i riscaldamenti prima degli spettacoli, uno se vuole... Così non ci si fa male. Non ci si fa male, ma anche come spettatore riattivi la circolazione. Esatto. Quindi provi con il coreografo un pezzo della coreografia che poi vedrai in scena successivamente. Quindi tu fai un esercizio e in 10 minuti provi la coreografia. Però ci sono i laboratori con persone ipovedenti e non vedenti, questo perché entrare dal punto di vista, in questo caso molto particolare, degli altri aiuta a riconsiderare il proprio e il proprio posto nel mondo. Il laboratorio con accaparlante on the road, con persone con diversa abilità, dance companion, quindi persone che accompagnano gli spettatori a guardare diversamente gli spettacoli. Insomma, i laboratori sono veramente tantissimi. Io vi invito a parteciparvi perché sono gratis, e questa è una cosa che non guasta, e soprattutto hai la possibilità di incontrare gli artisti come non li vedresti mai. Quest'anno abbiamo lo spettacolo a sorpresa dove non ti aspetti. Sì, dove non mi aspettate. Ok, però c'è. C'è, confermo, www.genderbender.it, 25 ottobre, 5 novembre, Bologna.